ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. La volta scorsa abbiamo incontrato Donna Prassede, lo straordinario personaggio dei Promessi Sposi che si impiccia negli affari di tutti, pretendendo di fare del bene, dove però la definizione di bene è alquanto soggettiva. Il marito di Donna Prassede è un personaggio altrettanto straordinario. Si chiama Don Ferrante e riesce a sopportare la moglie perché si è ritagliato nella casa uno spazio suo dove Donna Prassede non ha alcun potere. Don Ferrante, infatti, è un intellettuale tutto perso in studi astrusi, dall'astrologia alla magia, alla stregoneria, alla scienza cavalleresca. Pur essendo apparentemente agli antipodi, impicciona lei, fuori del mondo lui, i due coniugi hanno un tratto in comune. Sono entrambi incapaci di vedere la realtà. Donna Prassede non vede le persone come sono, ma come pensa che siano. Pretende di raddrizzare ciò che non ha bisogno di essere raddrizzato e, come sintetizza magistralmente Manzoni, prende per cielo il suo cervello. Crede di essere altruista e invece è profondamente egoista. Vede solo se stessa. Scambia i suoi pensieri, che per lo più sono sbagliati, con la realtà. Suo marito in fondo fa lo stesso, solo che invece di sostituire la realtà con i suoi pensieri e con un modo tutto suo di intendere la religione, come fa la moglie, la sostituisce con le teorie artigogolate delle quali gli piace tanto occuparsi. Questa sua incapacità di vedere il reale diventa palese al momento della morte. Nella Milano devastata dalla peste, Don Ferrante sosterrà con profonda e incrollabile convinzione la non esistenza della peste. Contagiato, rifiuterà di credere nel contagio. Addirittura morirà di peste, dichiarando che la peste non esiste. Secondo lui si tratta non di una malattia, ma di una congiunzione astrale sfavorevole contro la quale non si può far nulla. Ascoltiamolo mentre, infervorato, afferma la non esistenza del contagio e l'inutilità delle precauzioni igieniche di fronte alle spietate conseguenze delle congiunzioni astrali sfavorevoli. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove. E quando mai si è sentito dire che le influenze si propaghino? E loro signori mi vorranno negare le influenze? Mi negheranno che ci siano degli astri? O mi vorranno dire che stiano lassù a far nulla, come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino? Ma quel che non mi può entrare è di questi signori medici. Confessare che ci troviamo sotto una congiunzione così maligna e poi venirci a dire con faccia tosta non toccate qui, non toccate là e sarete sicuri. Come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedire l'effetto virtuale dei corpi celesti. E tanto affannarsi a bruciare dei cenci. Povera gente, brucerete Giove? Brucerete Saturno? Is fretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste. Gli si attaccò, andò a letto a morire come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle. Povero Don Ferrante, in qualche modo eroico nella sua ostinata, assurda cecità. Eppure in tante occasioni non siamo tutti un po' simili a lui? Più disposti a credere alle nostre teorie che a quello che vediamo e tocchiamo con mano? Pensateci, a risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.